Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, oltre 100 contagi negli Stati Uniti, la Cina mette in quarantena chi proviene dall'Italia. In diminuzione però i casi attivi nel mondo, ora sono meno di 40.000. 9 vittime tra i civili a Idlib in Siria, la crisi dei profughi investe l'Europa, 130.000 persone si ammassano al confine tra Grecia e Turchia. Disoccupazione stabile a gennaio al 9,8%, secondo l'Istat in leggero calo gli occupati, in particolare tra i giovani. Calcio, Serie A, si riaccende il caos calendari con l'attacco del presidente dell'Inter Zhang al numero 1 della Lega d'Alpino. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo come sempre con un'ampia pagina sul coronavirus in Italia. Dopo il numero di nuovi casi registrato ieri in diminuzione, c'è invece molta attenzione sulle province di Cremona e Bergamo. In queste ore si sta valutando se estendere le zone rosse. A livello globale il numero dei casi ha superato i 90.000, ma quelli attivi continuano a essere in diminuzione. E la Cina, dove è stato ormai superato il picco, si è deciso di mettere in quarantena chi proviene dall'Italia, ma anche dalle altre zone come la Corea del Sud, il Giappone e l'Iran. Oltre 100 casi anche negli Stati Uniti. Partiamo da qua. Nelle ultime 24 ore in Cina solo 125 nuovi casi di contagi da coronavirus, il dato più basso da 6 settimane, mentre nel resto del mondo sono 9 volte di più, oltre 1.100. Ormai in Cina su 80.000 contagiati guariti sono oltre 47.000, molto più dei 33.000 ancora malati. Ora però i cinesi temono i contagi di ritorno, per questo le autorità hanno imposto oggi la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i viaggiatori cinesi o stranieri in arrivo da paesi a rischio: Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia. A Teheran sono contagiati anche 23 deputati, 77 i morti e si teme una forte sottovalutazione dell'epidemia. Timori anche negli Stati Uniti, dove i contagi salgono a 105, i morti sono 5, ma soltanto 2.000 i tamponi effettuati contro i 23.000 fatti in Italia. Nel nostro paese si attende infine di capire se c'è davvero un rallentamento nel trend dei contagi. Ieri 258 contro i 528 del giorno prima. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda l'Italia, le aree di maggiore difficoltà restano quelle della Lombardia, Lodi, ma anche Bergamo e Cremona. In queste due ultime province in particolare si sta cercando di capire se estendere la zona rossa dopo che c'è stata in provincia di Cremona e di Bergamo una impennata dei casi. Rosanna Magnano ha intervistato l'assessore al welfare della Lombardia, Giuliano Gallera. C'è una discoteca che era frequentata sia dal personale dell'Lodigiano che del Cremonese, alcuni bar, l'ospedale, quindi quello è stato un po' il centro di tutto. La zona della Bergamasca è una zona dove abbiamo molti casi che in questo momento non sono riconducibili all'Lodigiano e stiamo agendo con grande forza nell'isolamento dei tanti contatti, dei tanti positivi. Vedremo se sarà necessario attivare anche lì delle zone rosse. C'è il dubbio diffuso che su Milano non si dica tutto. No, fortunatamente vi sono molte aree della nostra regione che sono molto poco interessate, non solo Milano, ma voglio dire abbiamo un caso a Sondrio, 0 casi a Varese, quindi fortunatamente ci sono aree della nostra regione in cui il contagio non si è sviluppato. A Milano sono 58 tra Milano e la provincia. Quindi non ci sono misure restrittive o più restrittive per Milano? No, assolutamente. Sui posti letto di terapia intensiva e personale come sta andando? Le misure che abbiamo messo in campo provano a contenere la diffusione del fenomeno. Se questa strategia riuscirà, noi siamo in grado di sostenere come sistema sanitario quei presidi che sono all'interno di queste aree e che chiaramente vivono una difficoltà oggettiva. Se invece è chiaro che la diffusione diventa molto più ampia, tutto questo risulta più difficile. Tra poco, più avanti, ancora altre notizie per quanto riguarda il coronavirus. Adesso però andiamo all'estero per occuparci della grave crisi in Siria. 9 civili, di cui 5 bambini, sono morti stamani a Idlib, il capoluogo della regione nord-occidentale siriana al centro del conflitto, come sapete, tra la Turchia e il governo siriano appoggiato dalla Russia. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Sentiamo. 9 civili, di cui 5 bambini, sono morti questa mattina a Idlib, centro del conflitto tra Turchia e governo siriano appoggiato dalla Russia. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, secondo cui un razzo sparato dall'aviazione di Damasco ha centrato una strada del centro cittadino. Anche l'esercito turco continua ad attaccare. Ankara ha rivendicato l'abbattimento di un caccia dell'aviazione governativa siriana a sud-ovest della località contesa di Sarakeb. L'esercito di Ankara rivendica anche di aver neutralizzato, cioè ucciso o ferito, altri 327 soldati di Damasco. In attesa del vertice tra Russia e Turchia previsto per giovedì a Mosca, l'Europa tenta di porre fine almeno alla crisi migratoria che si è scatenata da quando Erdogan ha riaperto i confini con la Grecia ai migranti. I migliaia premono a Kastanies e lungo il fiume Evros. La Grecia di Mitsotakis ieri ha usato contro di loro il pugno di ferro. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e usato i manganelli. Stamattina il cancelliere austriaco Kurz, commentando la decisione di Ankara sui migranti, lo definisce un attacco della Turchia contro l'Europa. Per questo i vertici delle istituzioni europee saranno oggi sul fronte della crisi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero. Oggi negli Stati Uniti si vota per il Super Tuesday delle primarie democratiche, che assegnano oltre 1500 delegati per la nomination. Si vota tra l'altro in California e in Texas. E in Israele, vittoria per il premier uscente Netanyahu alle elezioni politiche, in dubbio però la maggioranza assoluta dei seggi. In un bagno di folla, Benjamin Netanyahu esulta per il più grande successo della sua vita, mentre il segretario generale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Saeb Erekat, twitta che a vincere le elezioni israeliane sono state le colonie, l'occupazione, l'apartheid. Con poco meno della totalità dei voti scrutinati, il Likud di Benjamin Netanyahu ha ottenuto oltre il 29% delle preferenze, pari a circa 36 seggi della Knesset. La coalizione di destra oscilla tra i 59 e i 60 scranni, quando ne servono 61 per governare. Il secondo partito, il rivale di centro, blu-bianco, guidato da Benny Gantz, si assesta intorno al 26%, circa 32 seggi, ed è il peggior risultato delle tre elezioni a cui ha partecipato. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv. Torniamo in Italia intanto con i numeri dell'occupazione. Secondo l'Istat, a gennaio il tasso di disoccupazione è al 9,8%, stabile rispetto a dicembre, e in calo invece rispetto a 12 mesi fa dello 0,6%. Dunque, da questo punto di vista, una buona notizia. Ciò nonostante, il numero degli occupati a gennaio è leggermente diminuito, meno 40.000 unità, così come in leggero aumento il tasso di disoccupazione tra i giovani tra i 15 e i 24 anni, salito al 29,3%. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, cercando di valutare anche quali sono i primi segnali che arrivano sull'occupazione per quanto riguarda l'emergenza da Covid-19. E proprio per far fronte a questa emergenza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per stasera anche i rappresentanti dell'opposizione. In serata il Premier Conte riunirà a Palazzo Chigi i capigruppo delle forze politiche. Nel pomeriggio invece il ministro degli esteri Di Maio e quello dell'economia Gualtieri vedranno le imprese dell'export. Dopo i primi aiuti destinati alle zone rosse, il governo è al lavoro su un secondo decreto, una sorta di manovra anticoronavirus da 3,6 miliardi, per la quale si punta anche sul sostegno di Bruxelles, in parte già arrivato, in caso di uno sforamento del deficit programmato. Il provvedimento dovrebbe essere varato entro la fine della settimana o nei primi giorni della prossima. L'intenzione dell'esecutivo è quella di condividere i nuovi interventi sia con i partiti sia con le imprese, i sindacati e i governatori delle regioni, che domani saranno ricevuti da Conte, ospite di 24 Mattino. Il presidente di Confindustria Boccia invita ad agire sul fronte delle infrastrutture e sulla questione del credito alle imprese. È evidente che avremo un calo di domanda privata in Italia e in Europa, e questo va compensato con una domanda pubblica. Significa investire in infrastrutture con una dotazione rilevante. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E con la cronaca ci spostiamo in Sicilia per una vasta operazione anticorruzione con epicentro a Messina. Un trojan piazzato nei telefoni di alcuni sospetti ha svelato un giro di mazzette che ha coinvolto, oltre ad alcuni imprenditori, funzionari del Genio Civile di Messina e Trapani e un dirigente del comune della città dello Stretto. L'inchiesta è nata dall'intimidazione subita da un commerciante che aveva negato di aver subito estorsioni. Il cui racconto però non ha convinto la polizia, che ha iniziato ad intercettarlo. Sono 11 le persone arrestate, accusate di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e fittizia intestazione di beni, 14 in totale gli indagati. Tra gli arrestati anche un autista giudiziario in servizio al Tribunale di Messina. In cambio di favori avrebbe fornito informazioni su indagini in corso e sui movimenti dei magistrati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Il mondo del calcio è ancora in cerca di una soluzione su come e quando disputare le partite di Serie A. Un batter di ciglio. Tanto è durata la tregua sul calendario della Serie A, squassato dall'emergenza coronavirus. E a farla saltare, prima l'irritazione della interista Marotta, poi via Instagram la rabbia scomposta del presidente dell'Inter, il 29enne Zhang. Sei un pagliaccio, vergognati, le parole ad alzo zero del numero uno nerazzurro contro il presidente della Lega di Serie A d'Alpino, considerato il principale responsabile per il rinvio delle gare dello scorso weekend, in primis Juventus-Inter, in un primo momento previsto a porte chiuse. Benzina sul fuoco delle polemiche nelle ore in cui la quadra sembra essere stata trovata intorno al recupero delle 6 gare rinviate in questo fine settimana, con il derby d'Italia lunedì sera a Torino, se possibile a porte aperte, e ciliegina amara sulla torta arancida, ecco le altre polemiche via social per la scelta della Lega di far disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan domani sera a porte aperte a Torino, pur senza residenti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nei giorni in cui proprio nella città sono chiuse come misura anticontagio le scuole. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, Effetto Giorno fa un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, parleremo ancora del dato sulla occupazione in Italia, cercheremo di analizzare quali sono le tendenze in questo momento, alla vigilia tra l'altro dei dati sul mese di febbraio, che invece potranno già evidenziare le ricadute dall'emergenza da coronavirus, di cui parleremo con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Firenze città turistica, e quindi cercheremo di capire com'è la situazione in quella città. E poi con una lista dell'ISPI, anche qui cercheremo di capire cosa sta accadendo ad Idlib, nel nord della Siria, dove è in corso una guerra e da dove stanno partendo centinaia di migliaia di profughi, 130.000 sono ammassati oggi alla frontiera tra Grecia e Turchia, dove tra l'altro è attesa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, oltre 100 casi negli Stati Uniti. La Cina mette in quarantena chi proviene dall'Italia. In diminuzione i casi attivi nel mondo. In Lombardia cresce invece l'attenzione per Cremona e Bergamo, possibili focolai. Disoccupazione stabile a gennaio al 9,8%. Secondo l'Istat, in leggero calo gli occupati, in particolare tra i giovani. I timori per la flessione del turismo. Ne parliamo tra poco col sindaco di Firenze, Dario Nardella. 9 vittime tra i civili ad Idlib in Siria, la crisi dei profughi investe l'Europa, decine di migliaia di persone si ammassano al confine tra Grecia e Turchia. Calcio Serie A, si riaccende il caos calendari con l'attacco del presidente dell'Inter Zhang al numero 1 della Lega d'Alpino. 13 e 16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. Quelle che avete sentito sono i titoli principali delle notizie di oggi. Tra le notizie di oggi, ma siamo soprattutto in attesa di quello che accadrà negli Stati Uniti, dove si vota per il cosiddetto Super Tuesday. 14 stati al voto per scegliere il candidato democratico alle presidenziali. Ne parleremo tra l'altro più avanti anche con Effetto Mondo insieme a Giulia Crivelli. Intanto le incognite sul trionfo di Sanders, il rilancio di Biden, a questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. È il giorno delle primarie dei democratici americani, il cosiddetto Super Tuesday. Si decide il candidato che dovrà battersi contro il presidente Donald Trump, rimasto ormai unico nella corsa per i repubblicani. A 1-1 si sfilano alcuni nomi importanti della prima parte delle primarie. Lascia Pete Buttigieg e i suoi voti andranno a Joe Biden. Abbandona il miliardario Tom Steyer e ora restano 6 candidati. Si vota in 14 stati e in palio ci sono 1.357 delegati, di cui 415 in California, 228 in Texas, 110 in North Carolina. Si va alle urne in Virginia, nello stato del Vermont, a casa di Bernie Sanders, favorito anche in California. I successivi appuntamenti di maggior rilievo sono Iowa e Florida il 17 marzo, Pennsylvania e stato di New York il 28 di aprile, le ultime tappe delle primarie 19 maggio in Oregon, 6 giugno nelle Isole Vergini americane. La convention democratica chiamata a scegliere chi sarà a sfidare Donald Trump dal 13 al 16 luglio a Milwaukee nel Wisconsin. Poi a settembre arriverà il momento dei duelli televisivi il 3 novembre, Election Day. Una roadmap irta di difficoltà per i democratici che dovranno sfidare un presidente ancora in vetta ai sondaggi e alla popolarità. E ora, come detto, cari ascoltatori, cerchiamo di affrontare la complessa questione di quello che sta accadendo al nord della Siria, ad Idlib, in particolare al confine con la Turchia, nell'area nord-occidentale della Siria, dove è in corso una guerra da parte del regime siriano, che sta d'accordo e sostenuto dall'esercito russo, attaccando quella zona del paese a controllo turco. Dunque un conflitto militare vero e proprio, ma è soprattutto quella che sembra delinearsi sempre di più come una guerra dei profughi. Profughi, milioni di persone in quell'area, ma in tutta la fascia a nord della Siria, al confine con la Turchia, stanno diventando il vero centro, il vero motivo per cui c'è anche guerra guerreggiata. Le notizie di oggi ve le abbiamo già date, ci sono, secondo la fonte dell'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, 9 vittime tra i civili proprio ad Idlib, di cui 5 bambini. C'è un ammassarsi che è crescente di decine di migliaia di profughi provenienti da quell'area, che sono transitate dalla Turchia e sono ormai al confine con la Grecia, dove oggi è attesa anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, perché l'Europa ha annunciato, anche se siamo sempre agli annunci, ve lo dobbiamo riferire, di voler entrare in questa vicenda, perché tra poco sarà questa situazione ad entrare evidentemente in Europa. Lo facciamo con Eugenio Da Crema, analista dell'ISPI. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. E allora, intanto cominciamo proprio da Idlib, da questa zona a nord della Siria, a nord-ovest della Siria, al confine con la Turchia, da dove in questo momento si segnalano le partenze, i maggiori movimenti di profughi. Che cosa sta succedendo ad Idlib? Dunque, Idlib ormai da diversi mesi, negli ultimi 2 mesi in maniera molto, molto accentuata, è in corso una forte offensiva del regime siriano appoggiato dall'aeronautica russa per riprendere quest'ultima parte del paese, che è l'ultima area di de-escalation cosiddetta, di quelle aree che l'accordo tra iraniani, russi e turchi, che avevano istituito appunto queste zone dove in teoria avrebbero dovuto raggiungersi degli accordi di pace locali tra le fazioni, tra il regime e le fazioni di opposizione locali, dove invece si è risolto in tutti gli altri casi manu militari, e la stessa cosa si sta tentando di fare a Idlib. A Idlib il controllo della maggior parte di quest'area è in mano a questa fazione che si chiama, oggi si chiama Tahrir al-Sham, un tempo era nota come Jabhat al-Nusra, fazione in passato legata ufficialmente ad Al-Qaeda, oggi non ufficialmente legata, ma sempre una fazione molto estremista, però appunto oltre al controllo di fatto esercitato da questa fazione, che è quella che ha ricevuto anche maggiore sostegno esterno in questa regione, vivono 3 milioni erotti di civili, alcuni autoctoni, alcuni invece giunti dalle altre aree di de-escalation che erano in mano all'opposizione ripresa dal regime, fuggiti in quest'area. E questi 3 milioni di civili sono fondamentalmente questo nodo che il trio di Astana, quindi sì. Russia e Turchia. Da Crema, le chiedo un attimo, prima di arrivare ai 3 milioni e mezzo di persone, ai profughi, le chiedo, perché ha chiarito il ruolo della Siria, il ruolo di queste milizie jihadiste, qual è il ruolo della Turchia invece di Idlib in queste ore? La Turchia nel quadro di un accordo che aveva stretto con Putin ed Erdogan a Sochi alla fine dell'anno scorso, l'idea era fondamentalmente che la Turchia entrasse con dei contingenti militari per controllare questa zona demilitarizzata che doveva dividere una gran parte della zona di Idlib in mano all'opposizione dal regime. E una delle clausole fondamentali era che la Turchia riuscisse di fatto a strappare il controllo militare di questa zona a Tahrir al-Sham, cosa che la Turchia non ha fatto. La Turchia appoggia direttamente nell'area di Idlib e non solo, anche in altre aree del nord, oggi controllate di fatto dalla Turchia, quindi quelle che la Turchia ha conquistato negli ultimi anni nelle varie campagne miliziali, controlla dei gruppi diciamo più o meno moderati, in realtà la maggior parte non sono moderati affatto. Da Crema, vediamo se provo a semplificare, diciamo, una materia complicata, ma vedere se abbiamo capito. L'esercito siriano tiene sotto pressione questa zona di Idlib, dove si rifugiano, dove c'è una roccaforte dell'opposizione al regime siriano stesso, per arginare le possibili fughe verso la Turchia e quindi il tema dei profughi. La Turchia stessa, diciamo, si è posizionata strategicamente in quell'area. Detto questo, chi sono e perché fuggono da Idlib? Non si sa esattamente quante persone, ma si è parlato fino a 1 milione di profughi possibili o diciamo già potenziali. Sì, 1 milione sono quelli che sono ammassati fino adesso, in questi ultimi 2 mesi, lungo il confine con la Turchia, ma potenziali potrebbero arrivare anche fino a 2, appunto i civili stimati presenti a Idlib sono circa 3. Quello da cui fuggono è l'offensiva, perché ricordiamo, molti sono autoctoni, ma gran parte di questi 3 milioni, una provincia che in realtà prima del conflitto non contava nemmeno 1 milione di abitanti, sono persone con varie storie di opposizione al regime, civili, specialmente sono civili che hanno vissuto per molto tempo in zone dell'opposizione e che quindi per varie ragioni hanno paura a tornare sotto il controllo di Assad e come molti altri hanno fatto in passato, cercano di entrare e rifugiarsi in Turchia in questo momento. Però ricordiamoci che la Turchia ospita già sul territorio oltre 3 milioni e mezzo di profughi siriani, ricordiamoci, più dell'Europa messa insieme. E questo ovviamente ha creato un problema politico per Erdogan. Erdogan ha perso molto consenso elettorale negli ultimi anni a causa di questo grande numero di rifugiati. Di questa tematica. Senta, da Crema, le chiedo in pochi secondi prima di salutarci, non tanto quale potrebbe essere una soluzione, perché ci vorrebbero ore probabilmente, ma diciamo in una scala da 1 a 10, quanto è ottimista sul ruolo dell'Europa, che in queste ore ha mostrato un certo attivismo? Si segnala la presenza della Presidente della Commissione a confine tra Grecia e Turchia, dovrebbe esserci l'altro rappresentante per la politica estera europea, Borrell, ad Ankara in Turchia. Pensa che l'Europa possa giocare un ruolo positivo in queste ore? Io do un neutrale 5, perché dipende molto da cosa, dove andrà indirizzato questo attivismo europeo che sperabilmente arriva finalmente, perché se va come si è fatto nel 2016, semplicemente a trovare un accordo con la Turchia, quindi che blocca il confine dietro al pagamento di denaro, si rischia di ritornare allo stesso punto tra un anno o due. Se invece l'Europa cerca finalmente di ritagliarsi un ruolo politico anche proprio nella soluzione vera del problema, cioè la Siria, e cioè cercando di trovare una risoluzione del conflitto che sia politica e non militare come si è perseguita fino adesso, allora in quel caso, in questo momento in cui c'è grossa difficoltà anche da parte dei russi e dei turchi a gestire la situazione, allora l'Europa ha spazio di manovra. È positivo questo. Staremo a vedere. Grazie intanto Eugenio da Crema, analista ISPI. E veniamo adesso in Italia e intanto diamo il buongiorno al sindaco di Firenze Dario Nardella, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Allora, come anticipato con col sindaco di Firenze, vogliamo capire come sta una delle città italiane più turistiche, sicuramente per il turismo c'è molta preoccupazione per i danni collaterali da coronavirus. Oggi ci sono dei dati sull'occupazione che però sono di gennaio e non sono del tutto negativi, ma lo tsunami potrebbe arrivare a partire dal mese di febbraio, Nardella. Intanto le voglio chiedere che numeri avete, insomma, delle difficoltà registrate dagli alberghi, dagli hotel, dai bar, dai ristoranti. Guardi, i numeri sono impressionanti. Io faccio il sindaco da 6 anni e non ho mai visto una situazione del genere. Credo che neanche l'11 settembre o la guerra del Golfo o la crisi economica del 2007-2014 abbia prodotto effetti di questa entità nella mia città. Domani mattina incontrerò tutto il mondo del turismo, ma già questa mattina gli albergatori fiorentini mi hanno informato che in questo periodo di queste 3-4 settimane si è perso un volume di 120 milioni di euro a causa di cancellazioni. Siamo ormai ad alberghi con l'80% di camere vuote, a volte il 90%, alcuni alberghi hanno chiuso, dipendenti di fatto con le ferie forzate a casa, una prospettiva nel breve periodo di perdere 200 milioni. E senza una misura forte di impatto, se la situazione continua così, cominceremo a dover fronteggiare una situazione di occupazione, di crisi, di perdita di posti. Ecco, ma visto che alcuni virologi, Caruso oggi intervistato sulla stampa, il presidente dei virologi italiani, dice che bisogna prepararsi ad un passo lungo, cioè ci vorrà almeno un mese, mentre Rezza ancora ieri e altri infettivologi hanno detto aspettiamo ancora una settimana e poi capiremo se siamo fuori dal picco oppure no. Ci sono voci che invece danno la misura del fatto che questa situazione potrebbe andare avanti anche per almeno un mese o forse ancora di più. Lei che si trova a metà strada anche dal punto di vista geografico oltre che metaforico forse, tra Roma dove si prendono le decisioni e la Lombardia che è il focolaio di questo Covid-19, cosa ritiene che si possa fare in termini di comunicazione ma anche in termini di misure da adottare? Lei per esempio ha annunciato musei gratis aperti nel weekend, che però ha fatto anche un po' discutere questa misura, glielo anticipo subito Nardella. Sì, l'ho visto. Dunque, anzitutto è importante la comunicazione, che sia chiara e univoca. Lei stesso mi ha detto che alcuni esperti dicono che basta aspettare 2 settimane, altri parlano di mesi, quindi una comunicazione quanto più univoca e lineare aiuta non solo i cittadini sotto il profilo della protezione, ma anche gli amministratori e gli imprenditori a programmare tutta una serie di attività per il futuro. Poi va detto che la Toscana non rientra nelle 3 fasce individuate dal governo, rossa, arancione e gialla, quindi qui in Toscana le scuole sono aperte, i teatri, i cinema sono aperti, anche i musei sono aperti. La mia idea di offrire l'ingresso gratuito ha un senso, ha un significato psicologico, perché c'è una tale depressione, un tale clima di rassegnazione che bisogna dare un minimo di speranza, e Firenze è inutile girarci intorno, come poche altre città in Italia, come Venezia, come Milano, Firenze è l'immagine dell'Italia nel mondo. Cioè lei dice si può usare la città di Firenze, per esempio, che è fuori dalle zone difficili, anche se c'è stato qualche caso sporadico, isolato in Toscana, per dire guardate qua almeno venite, stiamo tutti tranquilli, però sempre rispettando quelle norme, Nardella, immagino. Ecco, perché si è creato un equivoco, a un certo punto il sindaco di Firenze disobbedisce alle ordinanze. Per cui ingressi contingentati? No. Quindi gli ingressi saranno contingentati, i controlli rimarranno, tutte le misure di prevenzione che il Ministero della Salute e la Regione Toscana ci impone le rispettiamo, quindi non è che stiamo andando contro le regole di prevenzione, controllo, contingentamento. Lanciamo solo un messaggio di incoraggiamento. Per esempio abbiamo deciso di sospendere il pagamento della COSAP, cioè del canone del suolo pubblico. Guardate, se passate in giro per Firenze non ci sono più persone che si siedono a un tavolino a prendere una birra. E nonostante che a Firenze non vi siano le limitazioni che ci sono per esempio a Milano, a Bergamo o a Venezia o a Padova. E questa è la cosa, diciamo, assurda. Si è creato ormai un clima per cui tutta l'Italia è vista come un'intera zona rossa. Io le lascio solo immaginare cosa vuol dire per me, sindaco di Firenze, vedere 9.000 studenti americani praticamente evacuati dalle istituzioni. Sì. No, anche in termini di immagine rischia di essere una situazione incredibilmente e ulteriormente negativa, proprio in termini di immagine, così come si è detto, vale anche per le possibili partite di calcio a porte chiuse, per cui si sta ancora litigando. Ma lì siamo in altre zone d'Italia. Lei, come sindaco di Firenze, quindi invita, e qui diciamo su questo ci congediamo. Io ringrazio Dario Nardella, sindaco di Firenze, grazie per essere stato con noi. L'invito quindi è rivolto a tutti i turisti, a tutti quelli che vogliono, nel rispetto delle norme indicate di igiene ma anche di comportamento che ormai conosciamo tutti, ad andare a Firenze a visitare i musei che sono gratis in questo weekend, quindi un segnale di ripartenza, di come dire, anche un segnale positivo e di tranquillità. Ci sarà comunque da riflettere, e questo è un invito che va rivolto al governo, a chi comunica di giorno in giorno non solo i dati ma anche l'interpretazione dei dati, su quale ritmo bisogna cominciare a tenere per questa emergenza, se appunto, come è stato detto, in una settimana, fra una settimana, fra pochi giorni capiremo se siamo fuori dall'emergenza e quindi cominciare a ristabilire, ad allentare anche queste misure restrittive, oppure se invece dobbiamo rassegnarci, ma non in termini necessariamente negativi, ma ad avere comunque un passo più lento, perché il tempo che dovrà trascorrere è un tempo più lungo e forse insomma qualcuno ce lo dovrà spiegare chiaramente. Questa era la cronaca di come si sta muovendo la città di Firenze. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci sentiamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, vertice tra Conte e rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione stasera per fare il punto sull'emergenza. Attenzione su Cremona e Bergamo, dove c'è stata una impennata dei casi, potrebbero diventare zone rosse. Intanto oltre 100 casi negli Stati Uniti, la Cina mette in quarantena chi proviene dall'Italia. A livello globale però in diminuzione i casi attivi. 9 vittime tra i civili a Idlib in Siria, la crisi dei profughi investe l'Europa, decine di migliaia di persone si ammassano al confine tra Grecia e Turchia. Disoccupazione stabile a gennaio al 9,8%, secondo l'Istat in leggero calo, tuttavia gli occupati. Calcio, Serie A, si riaccende il caos, calendari con l'attacco del presidente dell'Inter Zhang al numero 1 della Lega d'Alpino. Il nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Velocemente, perché siamo un po' in là con i tempi. Giusto due messaggi per dare la misura di quanto siano possibili, diciamo, le interpretazioni della situazione attuale nel nostro paese per quanto riguarda questa emergenza coronavirus, ma anche come la pensiamo, le nostre paure, chi pensa che si stia amplificando pacificando chi invece al contrario ha dei timori. Un ascoltatore, a proposito dell'iniziativa di Firenze, musei gratis aperti questo weekend, abbiamo appena sentito Nardella, dice: si dà un messaggio sbagliato, che cosa succede con veneti e lombardi che possono venire infetti nei musei di Firenze, dice un ascoltatore. E questa è la preoccupazione. Un altro invece scrive: il Louvre è chiuso, approfittiamone invece di piangere, è un'occasione unica, quando ci ricapita comunichiamo al mondo che i musei di Firenze sono aperti e gratis. Vedete, io lo ripeto, credo che sicuramente abbiamo bisogno di una linea da tenere, quindi non soltanto speriamo nelle prossime punti stampa, nelle prossime conferenze stampa, i dati forniti dai tecnici, dai commissari della Protezione Civile e commissario per l'emergenza Borrelli, ma anche un'interpretazione, credo anche politica, della situazione. Quanto tempo abbiamo verosimilmente da trascorrere in questa situazione? Punto di domanda. Qualcuno dovrà dare una risposta. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. C'è una cosa che va riconosciuta: il coronavirus ci fa percepire cosa sia l'idea di sanità italiana, non un fatto cartolare o di pregiudizi o generico, ma reale e concretissimo, come lo è il valore prezioso di un sistema pubblico e universale, soprattutto quando dimostra, come ha fatto finora, di saper reggere l'urto di un'epidemia globale fulminea, sconosciuta e pericolosa. Uno sforzo di organizzazione, di risorse, ma soprattutto di uomini e donne, di medici, paramedici, volontari e della loro generosità, vera caratteristica professionale profonda, che emerge con forza quando si raddoppiano o triplicano i turni di lavoro, quando lo stesso personale sanitario risulta in trincea esposto ai rischi come più dei pazienti stessi, ma non molla. Le corsie delle terapie intensive si sono riempite, ci sono 5.100 posti letto di questo tipo e in genere sono occupati al 48%. L'accordo tra pubblico e i privati dell'AIOP ne aggiungerà altri 1.300 solo in Lombardia ed è quindi una risposta corale. La difesa ha già individuato 80 caserme, altri 6.600 letti gestibili nel medio periodo. La Lombardia, che della sanità è un'eccellenza nazionale, sta confermando il suo primato e alla fine l'intero paese sa che ci può contare. Anche chi evade le tasse e in questi frangenti dovrebbe sentirsi un verme. Ed ora, lo avevamo anticipato, cerchiamo di scavare nei numeri sull'occupazione forniti dall'Istat. È con noi Roberto Manducci, direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, cosa c'è dietro i numeri? Il freddo numero è questo: la disoccupazione è risultato, il tasso di disoccupazione è risultato stabile al 9,8% a gennaio, stabile rispetto a dicembre, in calo, e questa è una buona notizia, rispetto a 12 mesi fa, quando era un po' più alto, dello 0,6%. Manducci, cosa ci dicono questi e altri numeri per quanto riguarda disoccupazione? Allora, il dato sulla disoccupazione è relativamente positivo, in quanto il tasso di disoccupazione è stabile. In realtà, se andiamo a vedere i dati sull'occupazione, la situazione cambia, nel senso che c'è un chiaro segnale negativo: abbiamo avuto una perdita di 40.000 occupati in un mese, da dicembre a gennaio. E quello che è più, diciamo, preoccupante è che si è innescato un trend negativo di fatto, perché al di là del dato positivo di novembre, che è stato abbastanza particolare come mese rispetto all'andamento complessivo del mercato del lavoro, noi siamo in calo sostanzialmente dall'estate. E a questo punto abbiamo perso 110.000 occupati in tre mesi, con una tendenza appunto negativa. Per quanto riguarda la composizione dell'occupazione, permane, questo è un dato relativamente positivo, un livello abbastanza elevato dell'occupazione permanente. I permanenti sembrano tenere rispetto alle altre forme occupazionali. Abbiamo un calo forte degli indipendenti, quindi i dipendenti permanenti hanno una tenuta, una relativa tenuta, mentre gli indipendenti continuano un calo. Quindi il mercato del lavoro sembra caratterizzato da una tendenza negativa complessivamente, concentrata soprattutto nel caso dei, degli indipendenti, con effetti limitati sulla disoccupazione. Appunto questo, stavo arrivando a questo, Manducci, perché quindi al di là dell'ottico, dell'effetto ottico di un dato di una disoccupazione stabile a gennaio, lei ci sta dicendo che i numeri invece indicano comunque che c'è un trend negativo. Siamo alla vigilia dei dati di febbraio che insomma conterranno anche gli effetti dei danni economici provocati dall'allarme per il coronavirus. Avete già qualche indicazione? Siamo in grado già di dire qualche cosa da questo punto di vista per prepararci? Allora, noi sappiamo, diciamo, da un punto di vista statistico, sui dati osservati ancora non abbiamo informazioni, nel senso che il dato più recente che abbiamo raccolto è stato quello sul clima di fiducia, che è stato diffuso a fine mese, ma di fatto, essendo la rilevazione concentrata nella prima quindicina del mese, non ha colto assolutamente l'effetto del contagio che c'è stato invece dal 21 di febbraio in poi. Quindi i dati finora disponibili a consuntivo non consentono nessun tipo di previsione. Devo dire tutto sommato che se da un lato il settore industriale dovrebbe essere abbastanza resiliente sotto certi aspetti, il settore dei servizi prenderà chiaramente un impatto negativo. Tra l'altro noi abbiamo avuto nel quarto trimestre un dato positivo proprio nei due comparti che probabilmente saranno impattati negativamente in misura più intensa, cioè alloggio e ristorazione. Andavano molto bene, sì. Sia i trasporti, sia quindi trasporti aerei, parliamo ferrovie, insomma, sia alloggio e ristorazione soprattutto, erano i due settori dei servizi che hanno tenuto sul fatturato nel quarto trimestre. E la prospettiva è chiaramente negativa per questi settori. Servizi. Staremo a vedere. Manducci, grazie per essere stato con noi dell'Istat. Vedremo tra una mezz'ata circa, quando avremo in mano i numeri veri su febbraio, per capire appunto quale sarà la situazione per quanto riguarda l'occupazione nel nostro paese in questa difficile fase. 13:48, piccolo break, torniamo tra un attimo.